Primo capitolo sempre del trattato Megillah della Mishnah e siamo arrivati alla penultima Mishnah del capitolo, la Mishnah Yod, la Mishnah 10. Sempre sullo stesso tema, che non è un tema, stiamo differenziando tra diverse situazioni simili ma con delle distinzioni. Il concetto che si introduce oggi è la differenza tra ciò che si chiama nel linguaggio della Mishnah Bamma Gedolah, il grande altare, e Bamma Ketanah, il piccolo altare. Cosa significa? Spiego brevemente. Prima che è stato costruito il tabernacolo, quindi il santuario nel deserto, ognuno poteva portare un korban, poteva offrire un sacrificio ad HaKadosh Baruch Hu, dove? Su un altare personale che era possibile costruire in qualsiasi luogo, anche in luogo privato. Come hanno fatto i nostri avi da Adam Arishon fino a Moshe Rabbeinu, se noi troviamo nella Torah, Yitzhak ha fatto un altare per il Signore, Yaakov ha fatto un altare, Noach ha portato dei sacrifici, non è che c'era un santuario. Non è che c'era un Beit HaMikdash o un Mishkan, c'era la possibilità di offrire ad HaKadosh Baruch Hu un sacrificio su un altare personale. Dal momento però in cui è stato costruito il Mishkan, si crea un tipo di esclusiva, che dice la Torah, in quanto non si possono portare korbanot se non che nel Mizbeach centrale del Mishkan. La cosa diventa centralizzata. Quando gli ebrei sono entrati in Eretz Israel con Yehoshua, subito dopo la morte di Mosè, sono arrivati al luogo che si chiama Gilgal, hanno ricostruito, rimontato lì lo stesso Mishkan che era nel deserto, e al suo interno c'era il Mizbeach, l'altare che aveva fatto Mosè nel deserto, però l'arca, l'Aron, non era nel Mishkan, perché l'arca accompagnava l'esercito nelle guerre di conquista di Eretz Israele. Di conseguenza era considerato come se non ci fosse un Mishkan fisso così come lo era nel Midbar, nel deserto, e di conseguenza torna la regola che ognuno può fare un Abamah, un altare personale in quel periodo. Nonostante ci fosse il Mishkan, in quel primo periodo in cui erano entrati in Eretz Israele, era di nuovo permissibile fare un korban privato su un altare privato. Ok? Perché non c'era l'arca. Può Perché l'arca non era fissa nel Mishkan. essere però pericolo di bottino da altre persone, cioè da altri popoli. Come? Cioè portarla durante i combattimenti può essere pericolo di Non bottino. solo era pericolo, ma era davvero accaduto. Però questo riguarda l'arca, noi stiamo parlando del Mizbeach. È un'altra storia. Quando gli ebrei sono venuti a Shiloh, che è un altro luogo, e hanno fatto lì il Mishkan, e lì c'era il Mizbeach, e c'era l'Aron, c'era l'Arca, di nuovo è diventato vietato fare un Mizbeach personale, solo nel Mizbeach di Shiloh, dove lì c'era il Mishkan e l'Aron. Dopo che Shiloh è stato distrutto, il Mishkan di Shiloh, e i Filistei hanno preso l'Arca in cattività come bottino, nei tempi di Eli HaKohen, il maestro di Shemuel, il profeta Samuele. Allora sono poi giunti a Nov, gli ebrei hanno costruito il Mishkan a Nov e lì è rimasto per 13 anni e poi il re Saul ha trasferito il Mishkan a Gibeon e il Mishkan è rimasto lì per 44 anni. Durante questo periodo di 13 anni di Gibeon e 14, 44 anni di Nov, di 9 di Gibeon, contrario, 13 anni di 13 anni di 9, 44 anni di Givon, e di nuovo era permesso fare bamot personali perché di nuovo l'Aron non era nel Mishkan, non era più considerata una cosa fissa, di conseguenza non c'era più l'esclusiva. E da quel momento era permesso fare una bamà, un altare personale, fino a che non è stato costruito il Beit HaMikdash a Gerusalemme tramite Shlomo HaMelech. Da quel momento in cui è stato costruito il Beit HaMikdash, che è la dimora fissa, per così dire, della Shekinah, del santuario, da allora rimane esclusivo se c'è il Beit HaMikdash, o come adesso che purtroppo in questo momento non c'è, rimane esclusivo che se si porta un Corban deve essere solo lì. Se non c'è la possibilità, non c'è la possibilità, ma non c'è più possibilità di fare un Corban personale su un altare personale. Dal momento anche che è stato adesso. Non c'è. Dal momento che è stato costruito il Beit HaMikdash fisso di Gerusalemme. Però adesso è distrutto come... Da quel momento che è stato costruito in poi anche non è distrutto. Più permesso portare un Corban fuori da lì, anche se è distrutto. Ecco. Per quello non si fanno, perché non c'è l'altare. Esattamente. Ora la nostra Mishnah viene a spiegare a noi la differenza. Qualora, quando era permesso portare un Corban su una Bamaktana, su un piccolo altare, che differenza, che cosa distingueva quello piccolo da quello grande, per ciò che riguarda il tipo di Corbanot che si possono portare su uno o sull'altro, la nostra Mishnah viene ad insegnare questa differenza, questa distinzione. Ok? Vediamo qual è. La Mishnah dice: En ben bamagdola le bamaktana e la psachim. La differenza tra la bamagdola, quella comunitaria, quella pubblica, che si trovava nel Mishkan, quando il Mishkan, come abbiamo detto, si trovava a Gilgal e a Nov e a Giv'on, e in quel momento era permesso fare anche una bama privata, la differenza tra questa grande e quella piccola, quindi quella privata, la differenza è solamente il Korban Pesach, Pesachim, cioè che un privato non poteva portare il Korban Pesach sulla bama privata, sull'altare privato. Ogni Korban, la Gemara spiega, non è solo i Pesachim, ma anche altri simili, cioè ogni Korban che ha un momento fisso e che tutti sono obbligati a portare, è un Korban obbligatorio, come il Korban Pesach, che tutti devono portare il Korban Pesach. E da un momento fisso, come il Korban Pesach, che il 14 di Nisan è il suo momento, questo Korban, anche se è obbligo del privato, è considerato una cosa pubblica, perché tutti hanno lo stesso obbligo. E di conseguenza va fatto solo sul Mishkan centrale, non sulla Bama privata. La Mishnah continua, Ze haklal, questa è la regola generale. Kol shehu nidar venidav, ogni korban che viene portato a conseguenza di un neder, un voto che una persona ha detto, una persona avesse detto, per esempio, io assumo su di me di portare un korban, questo è un korban personale, si chiama neder. Oppure nidav, un korban che è una nedavah, e cioè io offro questo animale come korban. La differenza tra il neder e la nedavah è il soggetto. Nel neder la persona è il soggetto. Nella nedavah l'oggetto è il soggetto, o l'animale, o quello che sia, ma non la persona. In questi due casi il korban può essere portato, eventualmente, se fosse in quel periodo, nell'altare piccolo, karev bebama, v'chol sheino lonidar velonidav eino karev bebama. E invece quello che non rientra in queste due categorie di neder e nedava non rientra nella bama ktana, non può essere portato sul piccolo misbeach, solo sul grande misbeach. In realtà, qui non è esplicito nella Mishnah, ma la Gemara lo spiega, ci sono anche delle korbanot considerate pubbliche che possono essere portate solamente nel Beit HaMikdash e neanche nel Mishkan. Come? Quale è quello che non può essere portato? Si tratta di alcune situazioni in cui, per esempio, il Kohen Gadol o il Sanedrin devono portare un Korban per una questione di un errore che hanno dato indicazioni errate, alachiche, al popolo, e il popolo ha agito in base a queste indicazioni alachiche, allora il Sanedrin deve portare un Corban di espiazione. Questo Corban esiste solamente quando c'è il Beit HaMikdash. Neanche nel Mishkan, neanche nel tabernacolo sulla Bama Gdola, solo nel Misbeach fisso del Beit HaMikdash. Sì. Da chi erano gestiti questi... quelle private? Quelle private ognuno poteva gestire da solo. E per quanto riguarda l'offerta che andava fatta al Cohen, non c'erano per questo tipo di... Sì, certo, certo. Se tu avevi un amico Cohen o qualsiasi Cohen, doveva essere coinvolto. Perché comunque i Cohenim insieme ai Leviti dovevano vivere dentro le città rifugio, credo, al di fuori... Allora, non è che sono limitati alle città rifugio. I Leviim hanno, non hanno una parte in Eretz Israel, un territorio, ma hanno 48 città, di cui 6 sono le principali città rifugio, ma in realtà anche le altre funzionano come città rifugio, lo studieremo nella Gemara di Makot. Però non è detto che non ci siano Cohenim e Leviim in altri luoghi. Per cui comunque bisognava coinvolgerli. Sì, Cohen, ci sono delle cose che bisogna dare al Cohen, che il Cohen deve fare. Sì, sì, sì. Niente. Allora, prossima Mishnah. Un'altra distinzione che va fatta tra Shiloh e Gerusalemme. Perché tra Shiloh e Gerusalemme? Perché come abbiamo spiegato prima, quando il Mishkan era a Shiloh e c'era l'Aron, Kodesh, Har Kodesh, a Shiloh, era considerato fisso. E erano vietate le Bamot Ktanot, i piccoli altari. Allora, che differenza c'è tra Shiloh e Gerusalemme? Cioè, ci sono delle differenze comunque nella Halakha per ciò che riguarda la dimora fissa, tra virgolette, del santuario a Shiloh e quella ancora più fissa, se possiamo dire, a Gerusalemme, e si esprime nella seguente, nelle seguenti Halakhot. En ben Shiloh l'Yerushalayim, l'uniche differenze che ci sono, distinzioni halachicamente, tra Shiloh, quando il Mishkan ovviamente si trovava a Shiloh, e Yerushalayim quando c'è il Bet HaMikdash, e là solamente le seguenti differenze. Shebe Shiloh ochlim kodashim kalim umaser sheni, a Shiloh era permesso mangiare kodashim kalim, significa cose sacre di basso livello, a differenza di kodashei kodashim, che sono cose sacre di alto livello. Un esempio di quello che stiamo dicendo noi è il Korban Pesach. Korban Pesach è una cosa sacra, è un sacrificio, ma è considerato basso livello, cioè gli accorgimenti che bisogna avere il suo riguardo sono minori rispetto a quello che sarebbe se fosse Kodashei Kodashim, santo dei santi. O il Korban Todah, anche rientra nella stessa categoria. Allora, a Shiloh si mangiano queste cose, e anche il Maaser Sheni, Maaser Sheni è la decima, la seconda decima. Cos'è la seconda decima? Molto semplice, abbiamo 7 anni nel corso del ciclo dell'anno sabbatico, il settimo anno dell'anno sabbatico, e 6 anni più settimo anno. Sempre un ciclo agricolo, dal punto di vista agricolo, 7 anni in Eretz Israel. Ci sono i doni e i prelievi che bisogna fare dal prodotto agricolo, quindi la terumah va data al Kohen. Il Maaser, che è la decima, va data al Levi. Poi c'è un secondo Maaser, un'altra decima che si toglie, e questa decima, in base a quale anno del ciclo di 7 anni è ora, va o ai poveri e si chiama Maaser Ani, la decima che va al povero, oppure rimane di propria proprietà e si chiama Maaser Sheni, secondo Maaser. Ma qual è la cosa speciale di questo Maaser? Rimane tua, ma tu la devi portare a Gerusalemme e lì consumarla, e assume un certo status di Kedushah. Basso, ma assume un certo stato di Kedushah. Allora diventa, rimane tuo di nuovo, ma deve essere mangiato a Gerusalemme, oppure nel caso di Shiloh deve essere mangiato a Shiloh. Allora, per ciò che riguarda Shiloh, dove si delimita la possibilità di mangiare il Korban Pesach o il Maaser Sheni, cioè i Kodashim Kalim o il Maaser Sheni, deve essere quanto distante dal Mishkan per poter ancora essere considerato che sei a Shiloh e che puoi mangiare ancora queste cose in quel luogo. Allora la Mishnah dice Bechol Harro'e, dovunque sei che si può vedere Shiloh, ancora rientra in questa possibilità. Esatto. Però a Gerusalemme non è così. Una volta che il Beit HaMikdash è stato costruito a Gerusalemme e le stesse regole si applicano ora a Gerusalemme, come si delimita? In maniera diversa. Ubirushalayim lifnim min hachoma. Bisogna essere all'interno delle mura della città. Mentre invece, vekan vekan, in entrambe le situazioni, sia di Shiloh che di Gerusalemme, kodshei kodashim, questioni sacre di livello ulteriore, come il korban chattat, per esempio, il korban che è portato per espiazione ha un livello di santità più elevato e quindi l'accorgimento è più stretto, i limiti sono più grandi e non può essere mangiato in tutta la città. Nechalim lifnim minakelaim, vengono mangiate all'interno delle delimitazioni del Mishkan, quando parliamo di Shiloh, ok? E all'interno delle mura, delle mura del Bet HaMikdash, quando parliamo del Bet HaMikdash di Jerusalem. Ulteriore e finale differenza tra le due, Shiloh e Jerusalem, Kedushat Shiloh, la santità del luogo di Shiloh, Yesh Achareha Heter, è una Kedushah. Kedushah significa anche esclusività, perché Kadosh significa distinto, vero? Allora la Kedushah di Shiloh, che rende esclusivo il Mizbeach, e non si possono fare altri Mizbechot piccole, come abbiamo detto, Bamaktana, è una Kedushah che però, Yesh Achareha Heter, dopodiché, cioè dopo che è stata distrutta Shiloh, c'è una nuova permissibilità, diventa di nuovo permesso la Bamaktana. Mentre invece Kedushat Yerushalayim, la Kedushah, la santità di Yerushalayim è così esclusiva che Enachareha Heter, che ritiene l'esclusività anche dopo che è distrutto. E dopo la Kedushah di Yerushalayim non c'è più permissibilità di fare in altro luogo. E quindi non c'è più stato il permesso di fare la Bama piccola fuori da Gerusalemme. Ah, posso dire qualcosa? Concludiamo il capitolo con questo.